Grazie dottore. Cosa c'hai? Buonasera, signor Marino. Meno male, ben alzato, buonasera anche lì. Tutto a posto, sì. Sì, a posto, già a posto. Guarda a te, che sei contento. Ehi, è andato 20 giorni, dopo 20 giorni l'azienda l'ha chiamato. Ha lavorato un paio di giorni, poi è andato via. Era convinto in pensione, non ho ricevuto nulla dall'INPS, niente, zero. Due o tre mesi senza da me nulla. Tre mesi senza da me nulla. Boh, l'INPS già non sa niente. Certo, ma la domanda va però. Certo, prima si fate la domanda a me. E poi ricevi la risposta dall'INPS che te la dà il patronato. Ma io ho capito, boh. Chissà il casino che ha fatto con il mercato del caffè, ma da me è stato tutto abbastanza, il patronato ha, e così è stato, chissà lui, chissà per il gasotto. Io e noi andremo dopo. Sì, certo, ma io quando ho fatto la domanda, ho fatto prima tutto il conteggio e coso, e poi ho fatto la domanda all'INPS, l'INPS te la dà subito, due giorni te la dà la risposta. Ma che va su un po' di tempo, ti dà subito la risposta, poi il patronato ti chiama, sali su e ti dà la risposta al patronato. Che da tuo giorno ti devi fare le ferie, devi andare a firmare i moduli e dare le cose giù al lavoro, vai, che ti fai le ferie. E poi te ne vai in pensione direttamente. Ah, non è fatto così. E poi l'hanno chiesto, io l'ho visto, ma se io l'ho chiesto, beh, i documenti c'è nulla, c'è arrivato qualcosa, poi non c'è il patronato, no, non c'è nulla. Cazzo, dai, diritto. E stavanti io faccio io trovato a Consue, e dunque è rimasto, e tre mesi ancora e non sa nulla, non sa nulla, non so, vai a un patronato e tutto qua. Ma devono chiedere subito, non è che te ne vai così, no, patronato ti dà le via, ti dà a dare le dimissioni e tutto quanto, sai che ti mandi così, no, dopo sapere il patronato ti deve dare la risposta, ti deve dare, e subito dopo due giorni ti deve dare la risposta, sai che deve passare sei mesi, hai compreso, non si deve passare nulla, no, e dopo due giorni devi sapere la risposta. Esatto, io ho fatto roba veloce, io una volta mi ha chiamato e di lì stesso ho fatto la domanda e mi ha detto il patronato, quasi qua il conteggio. A novembre ho trovato già le missioni a giù l'azienda e ho lavorato dicembre fino al 20 dicembre, poi c'erano le ferie fino al 31 le ferie, la prima pensione, capito? È stata una roba veloce, questo qua mi sa che il casotto ha combinato, cosa è il casotto? Aveva tutta a capogiugno, hanno fatto, si deve aspettare la domanda dall'Ipsi, la risposta al patronato, dà la risposta a te. E dice dai via le dimissioni direttamente dal 1 gennaio, a me ha fatto lavorare sino al 15, al 16 mi sono preso le ferie, e finito sino al 31 di dicembre, cioè le ferie, e poi dal 1 sono andato in pensione, ecco cosa mi è arrivato a me. Certo, io ho ricevuto subito, poi mi ha risposto l'INPS che tra i 20 mi davano con il cedolino i soldi, la prima pensione, ecco cosa è. E come ho fatto a me, io il segno è arrivato alla schermata. Infatti è così, e non devi aspettare sei mesi, ma fa cosa sei mesi? Caso compreso, vuol dire che non era in regola in nulla, i conti l'ha fatti male allora. Ma chissà da dove è andato, che cavolo le ha fatto, ma io non capisco, io l'avevo spiegato io quando stavo lavorando. Cosa va via di sindacato? Che sindacato va via? La CGL c'aveva, ma chissà che cosa ha fatto lui, la CGL. Ce lo sai, CGL, c'è quella ragazza che è molto brava la giornata. Che è molto abbastanza la giornata, da sotto l'ha fatto lui, sicuramente. senza avvisare giù, senza avvisare niente, boh. No, cosa, io lo stesso ci avevo il patronato della CGL, ha arrivato i conti a me, fatti i conti, ma ho detto venga al 20 che facciamo la domanda. Il 20 sono andato da loro, mi hanno fatto la domanda e di fronte, dopo di 5 minuti ha risposto l'Inpsi, ha risposto. Sai come hanno mandato, dopo 5 minuti ha risposto l'Inpsi. Tutto a posto, i documenti sono stati, dopo due giorni a Tolvia gli hanno dato, ha detto guardi signor Pina, dia le dimissioni tra giorno e poi si prende le ferie, che gli rimangono delle ferie, la fascia si fa le ferie, il primo gennaio se ne va in pensione. Certo, è molto semplice, però vogliono i donanzi, per ricevere la risposta subito, per ricevere come i documenti sono arrivati, ecco cos'è, ti rispondono subito, ti rispondono, tramite computer. E infatti così, a me meno delle cose, quando ha mandato i conti e tutto quanto, mi hanno risposto subito l'Ipis, che era tutto a posto. E mi ha detto che era fra un paio di giorni ci avevano la risposta, mandata, no? E infatti un paio di giorni ci sono passati e mi hanno risposto subito. E mi hanno dato l'ok, mi hanno dato di salire, che mi hanno spiegato tutto quanto. Oh, cazzo lei, che cazzo di casino dobbiamo? Ah, chi sa che casotto è entrato, è stato chiamato dopo 20 giorni dall'azienda, è entrato, ha lavorato, poi non si è fatto più vedere. Solo lì non c'è nulla, non va nulla dal patronato, non c'è niente, non c'è nulla in mano. Così mi ha detto Marcellino stamattina, boh, cosa è so, che casino ha fatto. C'era due. E adesso alle 9 non per mezzo lo scendo giù. Purtroppo sì. Ehi, anche loro c'hanno le valle, ormai come un abituato. Quando non è abituato è così, è anche cane mia figlia quando appena mangia, secondo me. Ecco giù Baedi, certo, non deve nascita 6 mesi o ridere di dato, deve essere fatto tutto subito, deve essere fatto, certo, non deve nascita nulla, no, vinci. E non ha fatto di signora, abbastanza gentile, roba veloce, ogni cosa mi chiamava. Se avevo bisogno la chiamavo, c'è un numero, c'è il numero del cellulare. E poi alla fine ho fatto anche 730. C'è la foto. Bene mela. E se è che vuole entrare con il suo 23? Cosa hai detto? Non vede nessuno. Su 10 c'è un po' di tratto, dopo calcio non potevo entrare che c'era gente qua. E così. Tutti i pensioni sono andati, adesso Marcellino già in fede non ne sa più, io sposo da un gentile, già capito che sto dicendo, vai. No, non ho già compreso nulla di cosa mi hai detto. E poi c'è Torinelli, poi c'è anche Mario... Vabbè, oggi compreso. E poi se non sbaglio c'è anche un altro, se non sbaglio, c'è anche un altro invece, però non me lo ricordo. Sì, andava bene, già va bene così, se non piaccia se facciamo le cose come si deve, perché se no non ridocca nulla da bui. Esatto, poi è andato un ragazzo, vabbè, esatto, è stata una vita, facciamo il cameriere, poi ha chiuso, il locale ha chiuso e l'hanno fatto entrare qua. Infatti, non va bene così, purtroppo, è quello che devi fare. Nato 2 anni, se è andato con la cifra più alta, va. Invece che con 1200 euro se ne è andato con la cifra più alta. Esatto, e con il caso che ieri mi sia 700, stiamo a lamentare, dai, poco a poco. Io già non mi so come mi intendi, a mandare a me. Il suo è il somiglio. E la punta è io stesso, non mi fa spaventare. In che campi? Che è il suo? Avrà aumentato un po' Gareddo di più. Però qua si deve addanarsi, piano piano andiamo a addanarsi. Esatto, piano piano si va avanti, tutti saranno cantando. Quando qualcuno chiama, poi andiamo, già via lì. Pazienza. E non so che si deve appigliare in minuta. O poco. Ecco cosa è. Quelli bisogna fare il governo aumenti, perché la cosa non è giusto quello che stanno prendendo. Ma quelli che sono al governo si sono aumentati di sotto sotto. Quella che c'è cazzo. Non lo so che c'è, se una cosa del genere che dovrò farlo sotto sotto gli aumenti, invece farlo sapere. 3 euro, 4 euro, 5 euro. Non è da come aumentano loro. 1000 euro, 5 euro, 10 euro, 5 euro. 10.000 euro. Non basta dire neanche che si bisogna, anche da mese di dati. Alla faccia la povertà. Infatti quello non dovrebbe succedere, devi farlo sapere che stanno aumentando a quelli, e poi chi te lo dà che devi aumentarli sotto sotto un gioco a questa gente qua che non ne hanno bisogno di aumento. Passa a dare i soldi a quei popolari che ti pigliano con 100 euro che non è con il cambio dell'euro, che se hanno visto la pensione minima, se hanno visto, perché prima prendevano un milione, prendevano, ora si è acciappata di 500. E infatti è uno schifo questa Italia di nero governo di Pugantu, di Nibutini. Poi non ho capito perché siamo i più alti di tutta Europa a pagare i dazi più alti di tutta Europa. Non l'ho compreso io. Uno senza soldi deve morire, capito? Se tu vai là, muori. A chi muori? Non basta i soldi che abbiamo versato quando stavamo lavorando, devi ancora pagare, capito? Diciamo perché non so fare cosa va da questo qua e aiuta questo dottore qua, chi è giù da andare, anche il dottore non è giù compreso, ho detto no, guardi se c'è, infatti c'era il medico e me l'hanno dato per il 15 alle 8, penso un po', che devo salire alle 8 dopo di tanto, cazzo, mi hanno dato il medico del diabetologo, e si arricchede una dottoressa, ad abbo di dato ci riuscì da avere un dottore, una dottoressa, speriamo che sia brava, che non sia vecchia. Con a capo, tutto a capo nuovamente. E infatti porto tutti gli ultimi documenti che ho col medico che avevo, devo portare tutti i documenti che ho, gli devo portare, non gli porto altro. Adesso sto cercando di telefonare al cardiologo, ma non mi risponde nessuno. Adesso lunedì torno a chiamare per vedere se mi rispondono. Adesso è 9:30, 10. Guarda, sto se mia figlia sta chiamando, il settimo giorno al gruppo di alcol di sedio, non risponde nessuno, è una cosa che fa schifo, non ti rispondo, squilla, ma non ti rispondo, capito? È pazzesco, boh. Andiamo. Ma il diabetologo sta in diabetologia. Allora, già vedi, non c'è, e non risponde nessuno. No, non chiamare neanche, ci dovete salire, dirgli di salire per parlarci, perché a me sono salito lunedì e mi hanno detto come farmi fare l'impegnativa, con quella impegnativa o chiamare il gruppo oppure andare di persona. Infatti sono andato di persona in via Tempio, che c'è meno gente lì, e me l'hanno dato. Quindi sono salito. E su mi hanno fatto aspettare 10 minuti e poi mi hanno fatto andare a parlare con questa qua. Questa qua qua mi ha spiegato tutto quanto come fare. Ha narrato poi il medico, me lo va. Ecco cos'è. Sono esce, l'avverto, è un casino, ti danno il numero di telefono, anzi dico una cazzata, una cosa, ho fatto la, come si chiama, la domanda di cosa, di, beh, l'aggravamento ho fatto, ci hanno inseppato un altro, il caso, da quanto, a marzo, faccio un anno a marzo, non ho ricevuto nulla, è sempre lavorazione, figurati. E questa domanda dovrebbe essere risposta, almeno mi hanno detto se sono dal giudice vuole una risposta, nulla, non ho risposta, è sempre lavorazione, faccio un anno a marzo, faccio, ancora non ho ricevuto nulla. Facciamo col personale, ecco cos'è, il personale che c'è, di quelli nuovi, non ne comprende né nulla, ecco cos'è, ma col personale non ve. Che schifo, è una cosa pazzesca, un anno, faccio un anno a marzo, che ho fatto la domanda, un anno a marzo, e ancora 0.0, via. Sto un attimino per un bicchiere d'acqua. Tanto sto chiudendo, signor Marino. Ok, dai, saluta, salutiamo, va. E poi ci sentiamo domani se coincide. Ciao Tobbe, sentite il saluto della signora, va. A domani se coincide. Ok, ciao signor Marino, stammi bene. E ciao agli ascoltoni. Ciao.